Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. La traversata ebbe termine. Sbarcammo e continuammo per Parigi. Scoprii presto che avevo sopravvalutato le mie forze e che dovevo riposare prima di poter continuare il viaggio. Le cure e le attenzioni di mio padre erano instancabili, ma egli non conosceva la causa delle mie sofferenze e cercava metodi sbagliati per guarirmi dal mio male incurabile. Voleva che cercassi distrazioni in società. Ma io aborrivo la vista degli uomini. No, non li aborrivo. Erano i miei confratelli, i miei simili, e mi sentivo attratto dal più repellente di loro quanto da creature di natura angelica e struttura celeste. Ma sentivo di non avere diritto alla loro compagnia. Avevo scatenato tra loro un nemico la cui gioia consisteva nello spargere il loro sangue e godere dei loro rantoli. Come mi avrebbero sfuggito tutti senza eccezione e scacciato dal mondo se avessero saputo delle mie empie azioni e dei crimini che avevano origine in me. Mio padre, infine, cedette al mio desiderio di evitare la compagnia e cercava con diverse argomentazioni di scacciare la mia disperazione. A volte pensava che io soffrissi per l'umiliazione di essere stato chiamato a rispondere di un'accusa di omicidio e si studiava di dimostrarmi la futilità dell'orgoglio. E io gli rispondevo: «Ahimè, padre mio, quanto poco mi conosci! Gli uomini, i loro sentimenti e le loro passioni sarebbero davvero degradati se un miserabile par mio nutrisse orgoglio. Justine, la povera e infelice Justine, era innocente come me e ha subito la stessa mia accusa, è morta per questo e la colpa è mia. Io l'ho assassinata, William, Justine e Henri, tutti sono morti per mano mia». Durante la prigionia mio padre mi aveva udito spesso fare questa affermazione. Quando mi accusavo a questo modo sembrava talvolta desiderare una spiegazione, talaltra invece pareva considerare tutto ciò come la conseguenza di un delirio, come se durante la malattia alla mia immaginazione si fosse presentata un'idea di questo genere, il cui ricordo perdurava ora durante la convalescenza. Io evitavo di dare spiegazioni e mantenevo il più stretto silenzio sul mostro che avevo creato. Temevo di essere preso per pazzo, e ciò bastava incatenarmi la lingua. Perciò frenavo la mia impaziente sete di comprensione e rimanevo zitto, quando invece avrei dato il mondo per poter confidare il mio segreto. Ciò nonostante, parole come quelle che ho riferito mi uscivano di bocca senza volerlo. Non ne potevo dare spiegazione alcuna, ma la loro veridicità alleviava almeno in parte il fardello del mio misterioso dolore. Quella volta mio padre chiese con un'espressione di sconfinato stupore: «A che cosa vuoi dire, Victor? Che ossessione è mai questa? Mio carissimo figlio, ti prego di non ripetere mai più una cosa simile». «Non sono pazzo», esclamai con energia. «Il sole e il cielo, che hanno seguito le mie azioni, sono testimoni della mia sincerità. Sono l'assassino di quelle vittime innocenti. Esse sono morte per colpa delle mie macchinazioni. Io mille volte avrei sparso il mio sangue a goccia per salvare le loro vite, ma non potevo, padre mio. Non potevo sacrificare l'intera specie umana». La conclusione di questo discorso convinse mio padre che le mie idee dovevano essere confuse. E subito egli mutò l'argomento della nostra conversazione e cercò di deviare il corso dei miei pensieri. Egli voleva per quanto possibile cancellare il ricordo di ciò che era accaduto in Irlanda, e mai vi faceva allusione, né permetteva che parlassi delle mie sventure. Con il passare del tempo divenne più calmo. L'angoscia dimorava sempre nel mio cuore, ma non parlavo più nella stessa maniera incoerente dei miei delitti. Mi era sufficiente averne coscienza. Con il più stretto controllo di me stesso imponevo il silenzio a quella voce imperiosa che qualche volta manifestava il desiderio di confessarsi al mondo. I miei modi erano più tranquilli e più composti di quanto non lo fossero mai stati dal tempo della mia escursione al mare di ghiaccio. E qualche giorno prima di lasciare Parigi per la Svizzera, ricevetti questa lettera di Elisabeth. Mio carissimo amico, la lettera dello zio, datata da Parigi, mi ha dato una gioia grandissima. Non sei più così terribilmente lontano, e posso sperare di rivederti in meno di 2 settimane. Mio povero cugino, quanto devi avere sofferto. Mi attendo di trovarti ancora più malato di quando hai lasciato Ginevra. Questo inverno è trascorso in terribile angoscia, torturata com'ero da un'ansiosa attesa. Eppure spero di leggere pace sul tuo viso e di vedere che calma e serenità non sono totalmente scomparse dal tuo cuore. Temo tuttavia che persista ancora lo stato d'animo che ti rendeva infelice 1 anno addietro e che il trascorrere del tempo non abbia fatto che accentuarlo. Io non vorrei turbarti nel momento in cui tante sciagure gravano su di te, ma un colloquio che ho avuto con lo zio prima della sua partenza rende necessaria qualche spiegazione prima del nostro incontro. Forse tu dirai che spiegazione può volere Elisabeth se davvero dici questo. Le mie domande avranno già avuto risposta e tutti i miei dubbi svaniranno. Ma tu sei lontano da me, ed è possibile che tu tema questa spiegazione pur desiderandola. Se così stanno le cose, non oso esimermi dallo scriverti quello che durante la tua assenza ho spesso desiderato di esprimerti senza mai trovare il coraggio di cominciare. Tu sai, Victor, che il progetto della nostra unione è stato accarezzato dai tuoi genitori fin dalla nostra infanzia. Ce ne parlarono quando eravamo bimbi e ci insegnarono a considerare questo evento come inevitabile. Eravamo affettuosi compagni di gioco durante la fanciullezza e credo che siamo rimasti buoni e teneri amici anche quando ci siamo fatti adulti, ma spesso fratello e sorella nutrono un profondo affetto reciproco senza per questo desiderare un'unione più intima. Non può essere questo il nostro caso. Dimmelo, Victor carissimo. Rispondimi sinceramente, io te ne scongiuro in nome della nostra reciproca felicità. Non ami qualcun'altra? Tu hai viaggiato, hai trascorso molti anni della vita a Ingolstadt e ti confesso, amico mio, che quando ti ho visto tanto infelice lo scorso autunno, tanto desideroso di solitudine, tanto alieno dalla compagnia di ogni creatura, non ho potuto fare meno di pensare che forse ti rammaricavi della nostra vagheggiata unione e ti credevi costretto dall'onore ad adempiere ai desideri dei tuoi genitori, per quanto contrari alla tua inclinazione. Ma questo è un ragionamento da non fare. Ti confesso, cugino mio, che ti amo e che nei miei fantastici sogni sul futuro sei sempre stato tu, il mio amico e il mio compagno. Tuttavia desidero tanto la tua felicità quanto la mia e non esito quindi a dirti che il nostro matrimonio mi renderebbe eternamente infelice se non fosse dettato dalla tua libera scelta. Anche ora piango al pensiero che, sconvolto come sei dalle più crudeli sventure, tu possa soffocare per la parola onore ogni speranza di quell'amore e di quella felicità che soli potrebbero farti rientrare in te stesso. Io che ti porto un affetto così disinteressato potrei aumentare 1000 volte la tua infelicità essendo di ostacolo ai tuoi desideri. Victor, sii pur sicuro che la tua cugina e compagna di giochi ha un affetto troppo sincero per te per non sentirsi infelice a questa supposizione. Sii lieto, amico mio, e se obbedirai a questa mia sola richiesta, stai sicuro che nulla al mondo potrà turbare la mia pace e non lasciarti allarmare da questa lettera. Non rispondere domani o dopodomani o persino fino al tuo ritorno, se ciò può procurarti dolore. Lo zio mi darà notizie della tua salute, e se quando ci incontreremo, vedrò solo un sorriso sulle tue labbra. Motivato da questa lettera o da altre mie congetture, non chiederò altra felicità. Elisabeth Lavenza, Ginevra, 18 maggio 1700. Questa lettera mi richiamò alla memoria ciò che avevo dimenticato. La minaccia del demone. Sarò con te nella tua notte nuziale. Era questa la mia condanna. In quella notte il mostro avrebbe impiegato ogni sua arte per distruggermi, per strapparmi quel barlume di felicità che prometteva di alleviare in parte le mie sofferenze. Quella notte egli era deciso a concludere con il mio assassinio la serie dei suoi delitti. Bene, che così fosse. Si sarebbe ingaggiata fra noi una lotta mortale, e se la vittoria fosse toccata a lui, io avrei riposato in pace e il suo potere su di me sarebbe finito. Se invece fosse stato lui vinto, io sarei diventato un uomo libero. Ahimè, quale libertà? Quella di cui gode un contadino che si è visto massacrare sotto gli occhi la famiglia, bruciare la casa, devastare i campi e sia costretto a vagare senza meta, senza dimora, senza denaro, libero, ma solo. Tale sarebbe stata la mia libertà, ma avrei posseduto la mia Elisabeth, un tesoro avvelenato, ahimè, dagli orrori del rimorso che mi avrebbe perseguitato fino alla morte. Dolce e amata Elisabeth, lessi e rilessi la sua lettera. Un po' di dolcezza mi si insinuò nel cuore e osai formulare sogni paradisiaci di amore e di gioia, ma il frutto era già stato colto e la spada dell'angelo, sguainata per allontanarmi da ogni speranza, eppure sarei morto per farla felice. Se il mostro mandava a effetto la sua minaccia, la morte era inevitabile, tuttavia non ero ancora sicuro che il matrimonio avrebbe affrettato il mio destino. La mia distruzione avrebbe potuto avvenire alcuni mesi prima, ma se il mio torturatore avesse sospettato che rimandavo il mio matrimonio per effetto delle sue minacce, certo avrebbe trovato altri e forse più terribili mezzi di vendetta. Mi aveva giurato di essere con me nella mia notte nuziale, ma certo non si sentiva tenuto da questa minaccia a lasciarmi in pace fino a quando non fosse giunto quel momento. Infatti, per mostrarmi di non essere ancora sazio di sangue, aveva assassinato Clerval subito dopo aver manifestato i suoi funesti propositi. Giunsi quindi alla conclusione che un immediato matrimonio con mia cugina avrebbe fatto la felicità di lei e di mio padre, senza ritardare di una sola ora le trame del mio avversario a danno della mia vita. E in questo stato d'animo scrissi a Elisabeth. La mia lettera era calma e affettuosa. «Temo, mia fanciulla diletta», dicevo, «che poca felicità rimanga per noi sulla terra. Pure tutta quella di cui potrò un giorno godere è concentrata in te. Scaccia le tue inutili paure. A te sola consacro la mia vita, e ogni mio sforzo è teso alla tua felicità. Ho un segreto. È un segreto terribile, e quando te lo rivelerò, raggelerai per l'orrore, e lungi dall'essere sorpresa per la mia angoscia, ti meraviglierai soltanto che io abbia potuto sopravvivere a ciò che ho sopportato. Ti confiderò questo racconto di infelicità e di orrore il giorno successivo al nostro matrimonio, perché, mia dolce cugina, ci deve essere fra noi una confidenza perfetta, ma fino ad allora non farne il benché minimo cenno, te ne scongiuro. È una vera e propria preghiera che ti rivolgo, e so che tu la esaudirai. Una settimana circa dopo l'arrivo della lettera di Elisabeth tornammo a Ginevra. Mia cugina mi accolse con sincero affetto, ma le lacrime le riempirono gli occhi quando vide il mio aspetto emaciato e le mie guance smunte dalla febbre. Anch'io notai un mutamento in lei. Si era fatta più sottile, aveva perduto molta di quella celestiale vivacità che mi affascinava un tempo. Ma la sua bontà e i suoi dolci sguardi di compassione facevano di lei una compagna ancora più adatta per un miserabile disgraziato quale ero. La tranquillità di cui allora godevo non durò. Il ricordo portava con sé la follia, e quando pensavo a ciò che era accaduto mi sentivo invadere da una vera smania. Ora ero furibondo e ardevo di ira, ora ero abbattuto e depresso, non parlavo né guardavo nessuno, ma sedevo immobile, sconvolto dalla moltitudine di dolori che mi soverchiava. Elisabetta soltanto aveva il potere di scuotermi da questi accessi. La sua voce gentile mi calmava quando mi lasciavo vincere dall'angoscia e mi ispirava sentimenti umani quando piombavo nel torpore. Piangeva con me e per me. Quando tornavo in me stesso mi rimproverava e si sforzava di ispirarmi la rassegnazione. La rassegnazione è una buona cosa per gli sventurati, ma per i colpevoli non c'è pace. Le angosce del rimorso avvelenano il piacere che qualche volta si prova abbandonandosi a un eccesso di dolore. Subito dopo il nostro arrivo, mio padre mi parlò del mio immediato matrimonio con Elisabeth. Io rimasi in silenzio. «Hai dunque un altro legame?» «Nessuno al mondo, padre. Amo Elisabeth e aspetto con gioia la nostra unione. Fissiamo il giorno e da allora mi consacrerò in vita e in morte alla felicità di mia cugina.» «Oh, mio caro Victor, non parlare così. Gravi sciagure ci hanno colpito, ma teniamoci quindi più stretti a ciò che ci resta e offriamo l'amore per coloro che abbiamo perso a chi ancora vive. La nostra cerchia sarà piccola, ma unita da vincoli di affetto e di comune sventura, e quando il tempo avrà placato la nostra disperazione, nuovi oggetti d'amore saranno venuti a sostituire coloro di cui siamo stati così crudelmente privati.» Tali erano i consigli di mio padre, ma per me il ricordo della minaccia era un continuo tormento, e ne dovete meravigliarvi che onnipotente come era stato il nemico nelle sue imprese sanguinarie, io lo ritenessi quasi invincibile, dal momento che aveva pronunciato le parole «Sarò con te nella tua notte nuziale». Io consideravo inevitabile ciò che mi era stato minacciato, ma la morte non era per me un gran male messa a confronto con la perdita di Elisabeth, e di conseguenza, con aspetto lieto e quasi gioioso, decisi con mio padre che se mia cugina avesse consentito, la cerimonia avrebbe avuto luogo di lì a 10 giorni, e in questo modo credetti di avere messo il suggello al mio destino. Buon Dio, se per un solo istante avessi sospettato le diaboliche intenzioni del mio acerrimo avversario, avrei preferito mettermi per sempre al bando dal mio paese e vagare per il mondo come un reietto, senza amici, piuttosto che consentire a quel disgraziato matrimonio. Ma quasi possedesse poteri magici, il mostro mi aveva reso cieco delle sue vere intenzioni. Mentre pensavo di avere preparato la mia morte, non facevo altro che affrettare quella di una vittima ben più preziosa. A mano che il tempo fissato per il matrimonio si avvicinava, forse per viltà o per virtù profetica, sentivo il cuore stringermisi nel petto. Ma nascondevo questi miei sentimenti sotto un'apparenza di allegria che, se illuminava di sorrisi e di soddisfazione il volto di mio padre, non ingannava l'occhio sempre attento e più acuto di Elisabeth. Ella attendeva la nostra unione con una tranquilla contentezza non disgiunta da un poco di timore. Le trascorse sciagure le avevano insegnato che quella che appariva una felicità certa e tangibile poteva presto trasformarsi in un sogno e non lasciare altra traccia all'infuori di un profondo e durevole rimpianto. Si fecero i preparativi per la cerimonia se ricevettero le visite d'augurio, e tutto aveva un aspetto sorridente. Tenni chiusa in cuore, come meglio potei, l'ansia che mi torturava e finsi di interessarmi ai progetti di mio padre, per quanto essi potessero servire soltanto da sfondo alla mia tragedia. Grazie all'interessamento di mio padre, una parte dell'eredità di Elisabeth le era stata restituita dal governo austriaco. Le apparteneva una piccola proprietà sul lago di Como. Decidemmo quindi che, subito dopo la cerimonia, ci saremmo recati a Villa Lavenza e avremmo passato i primi giorni della nostra felicità sulle rive del bel lago, dove era situata. Nel frattempo, io presi ogni precauzione per difendermi nel caso il mio nemico dovesse attaccarmi apertamente. Portavo sempre con me pistole e pugnale ed ero sempre allerta per evitare tranelli. In questo modo conseguii una certa tranquillità, anzi, tanto più il periodo stabilito si avvicinava, tanto più la minaccia mi appariva priva di fondamento, qualche cosa che non avrebbe dovuto turbare la mia tranquillità, mentre sempre più certa mi appariva la felicità che mi ripromettevo dal mio matrimonio, via via che il giorno stabilito per la celebrazione si faceva più prossimo, e ne sentivo parlare di continuo come di un evento che nulla avrebbe potuto impedire. Elisabeth sembrava felice. Il mio contegno tranquillo contribuiva grandemente a placare il suo animo, ma il giorno in cui doveva unirsi al mio destino, ella fu malinconica e si lasciò pervadere da un presentimento di sventura. Pensava forse al terribile segreto che avevo promesso di rivelarle l'indomani. Mio padre era al colmo della felicità e nella foga dei preparativi vide nella melanconia della nipote solo la ritrosia di una giovane sposa. Dopo la cerimonia, una gran folla si raccolse nella casa di mio padre, ma fu deciso che Elisabeth e io avremmo cominciato il nostro viaggio per via d'acqua, passando la notte a Evian, per proseguire il mattino seguente. Era una bella giornata, il vento favorevole e tutto arrideva alla nostra imbarcazione nuziale. Furono quelli gli ultimi momenti di felicità della mia vita. Navigavamo a una discreta velocità. Il sole era caldo, ma una specie di baldacchino ci riparava dai suoi raggi, mentre godevamo della bellezza del paesaggio. Da una parte avevamo dinanzi gli occhi di Salève, le belle pendici di Montalegre, e in distanza, troneggiante, il Monte Bianco e il gruppo di montagne coperte di neve che si sforzano di emularlo. Dall'altra parte il possente Giura, che oppone il suo nero dirupo all'ambizione di chi vuole evadere dal paese natio e che rappresenta una quasi insormontabile barriera per l'invasore che avesse il desiderio di farlo schiavo. Presi una mano di Elisabeth. «Sei triste, amore mio. Se tu sapessi quanto ho sofferto e che cosa forse mi aspetta, mi lasceresti gustare la quiete e l'assenza di disperazione che questo giorno, almeno, mi permette di godere». «Sii lieto, mio caro Victor», rispose Elisabeth. «Nulla, spero, ti preoccupa. E stai pure certo che il mio cuore è contento, anche se non reco dipinta sul volto una gioia esuberante. Qualche cosa mi sussurra di non fidarmi troppo dell'avvenire che ci si apre dinanzi, ma non voglio dare retta a una voce così sinistra. Osserva con quanta rapidità avanziamo e come le nuvole che ora celano e ora rivelano la cupola del Monte Bianco, rendono ancora più bello questo spettacolo. Guarda, anche quanti pesci guizzano nelle acque, tanto limpide che possiamo vedere ogni pietra sul fondo del lago. Che giornata divina, come appare lieta e serena la natura». Così Elisabeth cercava di distogliere i suoi pensieri e i miei da ogni riflessione su argomenti malinconici. Ma il suo umore era incerto, e per qualche istante la gioia le brillava negli occhi, ma solo per cedere di continuo il posto a un'espressione assente e trasognata. Il sole si fece più basso nel cielo. Superammo il fiume Drance e ne osservammo il corso che si snoda prima tra gli abissi dei monti più alti, poi per le valli di quelli più bassi. Le Alpi. Qui si fanno più prossimi al lago e ci avvicinammo all'anfiteatro di montagne che ne forma il limite orientale. Il campanile di Evian scintillava fra i boschi che lo circondano e l'ininterrotta catena di monti che lo domina. Il vento, che ci aveva fino ad allora sospinto con prodigiosa rapidità, si mutò al tramonto in una lieve brezza. L'aria dolce increspava appena la superficie dell'acqua e scuoteva dolcemente gli alberi, mentre ci avvicinavamo alla riva da cui giungeva fino a noi un delizioso profumo di fiori e di fieno. Il sole affondava dietro all'orizzonte quando sbarcammo e, come posi piede sulla spiaggia, sentii rinascere in me quegli affanni e quei timori che presto mi avrebbero afferrato per non lasciarmi più. Ad alta voce, Tommaso Ragno ha letto Frankenstein di Mary Shelley. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.